Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, da Deborah Rosciani benvenuti a Salva Danaio. Oggi parliamo di un tema di grandissima attualità che ha finito con l'appassionare negli ultimi mesi, nel bene e nel male, un po' tutti. Parliamo dell'operato delle agenzie di rating, di quelle società cioè che attribuiscono un giudizio al merito di credito di stati sovrani, di titoli di Stato, di società quotate, enti locali e enti pubblici. Il loro giudizio è molto importante perché da questo dipendono anche le scelte di investimento delle più grandi istituzioni finanziarie come quelle dei piccoli risparmiatori. In particolare negli ultimi mesi le pagelle sui debiti sovrani dei paesi europei in difficoltà sotto il peso della crisi hanno fatto letteralmente tremare il vecchio continente. Il 13 gennaio scorso, ricordiamo, Standard & Poor's ha tagliato il rating di 9 paesi, fra cui Francia, Spagna e Italia, che è passata da A a BBB+. Senza farsi troppo attendere sono arrivati poi anche i giudizi delle altre due sorelle. Il 27 gennaio è stata la volta di Fitch, che ha tagliato il rating dell'Italia di 2 notch, così si dice in gergo tecnico, poi naturalmente ve lo spiegheremo, portandolo da A+ ad A- con outlook negativo. Fitch ha declassato insieme all'Italia di un gradino anche la Spagna, il Belgio, la Slovenia e Cipro. Infine Moody's il 13 febbraio scorso ha declassato l'Italia da livello A2 ad A3 con outlook in prospettiva negativa, ma ha anche declassato Spagna, Portogallo, Slovenia, Slovacchia e Malta, e poi a Francia, Austria, Regno Unito si minaccia la perdita della AAA, vengono assegnate ad esse anche un outlook negativo. La scorsa estate era stata altrettanto rumorosa la mossa di Standard & Poor's sugli Stati Uniti, che hanno perso appunto la AAA, il massimo grado di affidabilità. Allora, tutto questo per arrivare a dire che, secondo le interpretazioni di molti, il mercato avrebbe imparato a digerire questi giudizi senza destabilizzarsi troppo, ma sono comunque molte le conseguenze sulle scelte di investimento. E dopo le discussioni ci sono importanti novità in vista. Il Parlamento europeo e il Consiglio europeo sarebbero in procinto di discutere nuove regole sui rating nell'ambito dell'Unione europea, in arrivo probabilmente la prossima estate. Allora, alla luce di tutte queste possibili novità e alla luce anche del fervore che ha animato il dibattito degli ultimi mesi, oggi Salva Danaio vi spiega come nasce il giudizio di un'agenzia di rating e risponde, se volete, alle vostre domande e alle vostre curiosità, e si mette in pasto dei nostri ascoltatori la dottoressa Maria Pierdicchi, responsabile Sud Europa per Standard & Poor's. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a lei e agli ascoltatori, che sono già molto attivi, ci stanno già scrivendo, ci stanno già segnalando appunto le loro curiosità al 349-238-6666, ma se volete potete intervenire in diretta anche all'800-24-0024. Ci potete scrivere a salvadanaio@radio24.it e potete animare, come fate molto spesso ultimamente, anche il nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24. La borsa rapidamente è negativa questa mattina. In realtà il mercato non si è rasserenato del tutto dopo l'accordo sul nuovo pacchetto di aiuti da erogare appunto alla Grecia, e oggi di nuovo giù tutti gli listini del vecchio continente, con Parigi che scende di mezzo punto, Francoforte perde un punto, Londra meno 0,38, Milano meno 0,46%. Continuano a correre i titoli Monte dei Paschi, a Milano più 5,40, Generali più 3,78, Fiat più 2,78. I cali più pronunciati sono su Finmeccanica meno 3,29, Popolare dell'Emilia Romagna meno 2,31, Intesa San Paolo meno 2,29%. Io però la borsa la vorrei lasciare subito perché voglio iniziare immediatamente la mia chiacchierata con la dottoressa Pierdicchi. Le chiedo subito come ci si sente a vivere da qualche mese a questa parte, così un po' sotto stretta osservazione come voi fate generalmente nei confronti degli stati sovrani, delle società quotate, degli enti pubblici, degli enti locali. Ma guardi, fa parte del nostro lavoro. Il nostro lavoro è dare tempestivamente agli investitori le nostre opinioni su cui si può essere d'accordo o in disaccordo. Molto spesso gli enti soggetti a rating non sono d'accordo con il nostro rating, soprattutto quando ci sono azioni di downgrade, di abbassamento, ma siamo abituati a cercare di essere trasparenti, spiegare sempre meglio le nostre opinioni e accettare anche le critiche in uno spirito di confronto. In fondo gli investitori hanno tanti indicatori per fare le loro scelte, il rating è solo uno di essi, quindi siamo consapevoli consapevoli che non tutti utilizzano il nostro rating, alcuni sono molto d'accordo sul nostro rating, altri preferiscono altri rating o utilizzano le loro informazioni proprietarie. Quindi credo che le critiche facciano parte del nostro ruolo intrinseco di mercato, che non è un ruolo facile perché abbiamo delle grosse responsabilità, a volte le nostre decisioni sono difficili da digerire per il mercato, ma soprattutto anche per gli enti soggetti a reti. Nello stesso tempo abbiamo il dovere di essere trasparenti e di dare le nostre valutazioni analitiche, questo è il nostro ruolo, quindi direi siamo abbastanza abituati. Prendere delle decisioni, lei diceva, è difficile, è stato difficile per esempio prenderle per l'Italia, glielo chiedo naturalmente da italiana, perché poi a voi è stata attribuita anche la responsabilità di aver scatenato la bagarre, tra le altre responsabilità, la bagarre che sui titoli di Stato appunto si è manifestata dall'estate scorsa. Poi le chiedo questo perché le farò sentire anche alcuni interventi che abbiamo tratto da un convegno che si è svolto sabato a Parma, dove ha partecipato la dottoressa Maria Cannata, direttore del debito pubblico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che effettivamente ritorna un po' indietro nei mesi e dice qualcosa è cambiato nei nostri riguardi da quando a maggio scorso appunto Standard & Poor's è intervenuta su di noi. Ma io direi innanzitutto bisogna capire che cosa qual è il ruolo del rating. Il ruolo del rating è quello di trasferire prontamente agli investitori ogni cambiamento che in base ai nostri criteri e alle nostre metodologie si riflette in un cambiamento del merito di credito. Allora pensare, credo che non sia corretto pensare che il rating sia responsabile di fatti, accadimenti che in realtà sono sotto gli occhi di tutti. Noi se in qualche modo non ce la si può prendere col termometro perché misura la febbre. In realtà nell'Eurozona in questi anni abbiamo assistito a notevoli problematiche che in parte sono anche riflesse nei nostri rating, in parte comunque hanno determinato un andamento del mercato che non sempre è legato al rating. Ricordiamo che rating guarda all'analisi fondamentale dei paesi. È indubbio che oggi molti paesi stanno soffrendo, non ne abbiamo mica inventato noi. Noi osserviamo e cerchiamo di prevedere come determinate evoluzioni e determinate incertezze possono influenzare, peggiorare o migliorare il merito di credito dei paesi, però i mercati e quindi l'andamento dello spread spesso che guarda a fattori molto diversi, guarda a fattori di breve termine, a sentimenti che cambiano anche più volte in una giornata, che hanno a che fare con dichiarazioni politiche, con posizioni politiche prese o non prese, indecisioni, hanno a che fare con risultati economici che ogni giorno sono sotto gli occhi di tutti. Quindi io credo che bisogna essere, non pensare che il rating è la responsabile di fatti che sono sotto i nostri occhi, ma piuttosto guardare se il rating li interpreta correttamente, in maniera trasparente, in maniera che dà agli investitori una validità, un valore informativo per le loro decisioni di investimento. Non attribuiamo al rating ruoli che non ha. Il rating non è una bocciatura o una promozione. So che voi giornalisti giustamente sintetizzate in questo modo. Il rating è una valutazione sulle capacità di rimborsare puntualmente il debito. Non è né una raccomandazione di investimento, né una certificazione contabile, né una bocciatura, né un'opinione politica. Certo, il fattore politico, cioè l'incertezza o meno politica di quelli che sono i policy makers, come li chiamiamo noi, può avere un effetto nel rating sovrano, viene considerato come un fattore, ma non è un'opinione politica. Il rating serve a dare una indicazione sintetica, comparabile. Comparabile cosa vuol dire? Che qualsiasi strumento finanziario nel portafoglio di investitore può essere valutato anche secondo il merito di credito attribuito da un'agenzia di rating. Questo fa sì che sia un linguaggio semplice, universale, che metta a confronto nella stessa maniera tanti paesi diversi, strumenti diversi, dei bond, delle obbligazioni societarie, delle obbligazioni governative, dei cover bonds emessi da una banca, dei prodotti strutturati e via dicendo, dando all'investitore uno strumento semplice e utile per confrontare le loro opinioni di credito con un'opinione indipendente, esterna e fatta da un'agenzia che ha una grande copertura, come diciamo noi, di analisi, che consente quindi di avere un universo molto ampio di titoli. Credo che questo è il valore che il rating deve avere, e la trasparenza e l'indipendenza sono senz'altro gli elementi fondamentali. Anche se poi molto spesso, lei lo sa meglio di me, la questione dell'indipendenza vi viene contestata, perché appunto vi viene mosso il rilievo che in realtà agite in una situazione di conflitto di interesse quando attribuite i vostri giudizi. Poi ci arriviamo naturalmente anche a questo, prendendo anche a spunto alcune domande che già stanno arrivando da parte dei nostri ascoltatori, perché io allora direi di cominciare subito a farli intervenire, perché sono domande utili a fare il percorso che vorremmo fare questa mattina, a spiegare cioè come lavorate nel dietro le quinte, come il rating si forma. Un ascoltatore ci chiede: chi sono i clienti delle agenzie di rating, dottoressa Pierdichi? Quindi, nella fattispecie, per esempio, l'Italia che ha un determinato giudizio da parte vostra, è lo Stato italiano che vi chiede di formare il suo giudizio sulle condizioni di solvibilità? Allora, in generale, chi richiede un rating sono gli enti che emettono debito, che siano società, che siano enti pubblici, che siano banche, assicurazioni e via dicendo. Nella richiedere un rating, questo è un rating sollecitato e quindi presuppone tutto un contratto di rating e poi l'assegnazione di un team di analisti secondo procedure e criteri di cui magari parleremo un attimo. Nel caso in particolare degli stati sovrani, non tutti i rating sono richiesti dai gli enti sovrani. Anche perché ci chiediamo, per esempio, la Grecia, che era sull'orlo della bancarotta, che interesse ha a farsi certificare ufficialmente che abbia questa condizione? Innanzitutto vorrei dire che chi ha un grosso debito che è nei portafogli degli investitori, francamente, deve pur rispondere alle esigenze informative di questi investitori, che difficilmente terrebbero questo debito in portafoglio in assenza di rating, perché il rating, come dicevo, è uno strumento utile agli investitori. Cioè, noi incontriamo investitori ogni giorno, chiaramente sono i veri utilizzatori del rating, e difficilmente investitori vanno sui mercati e acquisiscono importanti titoli e montali di titoli, gestiscono il portafoglio in assenza di una valutazione indipendente che poi loro integrano con le loro valutazioni o confrontano. Quindi la valutazione, il rating serve a questi enti per andare sui mercati e raccogliere finanziamenti, ripeto, perché così si può accedere a un più ampio spettro di investitori. Senza rating, ad esempio, è difficile poter avere degli investitori internazionali, perché in tutto il mondo è un linguaggio utile e semplice e utilizzato. Quindi gli utilizzatori e agli emittenti serve per andare sui mercati e quindi per migliorare il loro accesso al finanziamento. Quindi ricordiamoci anche un effetto di sistema importante, perché più le aziende accedono a canali diretti di finanziamento e non solo bancari, e più si possono finanziare con flessibilità, hanno più capacità di finanziarsi. Dall'altro lato ci sono gli investitori che utilizzano il rating, quindi anche le nostre analisi, i nostri servizi informativi, per gestire il loro portafoglio secondo delle loro preferenze di rischio. Se sono poco rischiosi, guarderanno a titoli cosiddetti investment grade, quindi con una qualità di credito alta. Se invece sono investitori molto focalizzati su titoli più rischiosi, perché hanno delle competenze specifiche, cercheranno magari titoli non investment grade o un mix dei due a seconda delle preferenze e delle loro scelte di portafoglio, dei fondi che gestiscono. Quindi i nostri clienti sono da un lato gli emittenti, dall'altro anche gli investitori. Per il rating sovrano vorrei specificare che nel caso dell'Italia è un rating non sollecitato, come nel caso di molti altri enti sovrani che hanno deciso di non avere un contratto di rating per loro scelta. In questo caso comunque l'agenzia di rating deve fornire il rating per vari motivi, innanzitutto perché gli investitori ce lo richiedono, ecco, perché esatto. Quindi stiamo anche parlando di debiti importanti, ricordiamo l'Italia è il terzo debito nel mondo. Per esempio, qual è un paese che non ha fatto la richiesta di sua iniziativa? No, in generale quasi tutti tendono ad avere almeno un rating sollecitato, ma magari non tutti i rating delle altre agenzie. L'Italia, per esempio, non ha il rating Standard & Poor's non è sollecitato, un'altra agenzia ha un rating sollecitato. Ciò nonostante, il nostro rating segue assolutamente gli stessi criteri e metodologie, sia che sia sollecitato e non sollecitato, perché comunque si utilizzano gli stessi criteri analitici. Quindi in tal caso, diciamo, non c'è neanche un vero e proprio cliente, perché lo si dà al mercato sempre attraverso anche una relazione interlocutoria con gli enti sovrani, che ovviamente partecipano al processo, però non si ha nessun, diciamo, è di una tipologia non sollecitata. Questo per Standard & Poor's avviene solo per gli stati sovrani, per i motivi che accennavo prima. Da un lato l'ammontare del debito è tale per cui gli investitori ci chiedono questo rating, credo che difficilmente potrebbero gestire portafogli in assenza di un rating che metta a confronto i bond governativi, le obbligazioni governative, dall'altro per operare in un analizzare gli enti societari, bancari, pubblici di ogni paese, bisogna per forza fare il rating sugli enti sovrani, perché hanno un legame analitico molto importante sia col sistema bancario in particolare, ma non solo, ma anche con altre entità. Quindi il rating sovrano dà una specie di la qualità del credito sovrano si riflette poi, secondo criteri particolari, in parte anche sulle entità. Sarebbe impossibile fare il rating di una banca senza un rating sovrano, e questo lo abbiamo visto molto bene, perché poi il meccanismo che si scatena quando emettete un verdetto di downgrade appunto su un paese, inevitabilmente nel giro di un paio di giorni arriva anche il a domino, certo, downgrade sulle banche di quel paese, sugli enti locali e quant'altro. Allora ci dobbiamo fermare, abbiamo la prima pausa. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Le anticipo già che ci sono due ascoltatori pronti ad intervenire, un ascoltatore di Belluno che vuole chiederci la differenza fra un giudizio di un bond del nostro paese e di un'altra grande economia europea, un altro Silvio vorrebbe porre appunto l'accento invece su alcuni errori che vi sono stati attribuiti in passato appunto sulla l'attribuzione di rating a determinate società. Eccoci ritrovati in diretta. Oggi abbiamo preso un tema di grande attualità per poterlo spezzettare, approfondire, il tema del rating, perché come sapete l'operato delle agenzie di rating da molti mesi a questa parte sotto stretta osservazione. Le grandi agenzie di rating hanno ripetutamente declassato il loro giudizio sulle principali appunto economie dell'Eurozona, e questi loro interventi hanno fatto spesso discutere. Tra l'altro questo è un lavoro anche che ha fatto il nostro direttore, l'agenzia Radio Corriere del Sole 24 Ore. Abbiamo anche notato in certi momenti in cui questi interventi, poi chiaramente ne parleremo, sono intervenuti quando il mercato sembrava voler ripartire. Allora ecco che puntualmente arriva un giudizio negativo di declassamento da parte di un'agenzia che arresta inevitabilmente il trend virtuoso che magari la borsa ha intrapreso. Sono delle semplici coincidenze? È vero che c'è questo effetto dirompente da parte delle agenzie? Noi stamattina stiamo facendo una chiacchierata a 360 gradi con Maria Pierdicchi, responsabile Sud Europa per Standard & Poor's. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Quello che vorremmo fare noi anche stamattina è raccontarvi come operano nel dietro le quinte le agenzie, come formano questi rating. Allora, per cominciare a spiegarlo con qualche dettaglio in più, prenderei a spunto la domanda di Bruno da Belluno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Bruno, ci dica. Dunque, niente, io controllo abbastanza spesso il mercato obbligazionario e noto che è evidente le difficoltà dello Stato italiano per tutte le manovre che sono state fatte, però noto che comunque non penso che lo Stato spagnolo se la passi molto meglio, visto anche la disoccupazione e i problemi di bilancio che hanno anche loro, però noto che i bond italiani hanno un giudizio tripla B+, mentre quelli spagnoli godono ancora di un A. Sì, Bruno, grazie. A meno, precisava Maria, sì, Perdicchi, perché poi sono delle valutazioni differenti che hanno una loro importanza. Allora, è così? Ma intanto vorrei magari per beneficio degli ascoltatori spiegare un attimo la scala di rating, che mi sembra importante. Quindi dicevamo, l'opinione è un'opinione sulla capacità di rimborso. Ogni classe di rating, che sintetizza questa opinione molto elaborata basata su elementi quali quantitativi, va dalla tripla A alla tripla B per quanto riguarda la categoria investment grade, e poi dalla doppia B alla tripla C e alla D in caso di default, per la categoria non investment grade. Ogni categoria di rating viene poi associata ogni anno, in base alle nostre statistiche, alle insolvenze che si verificano, proprio per guardare se ad ogni categoria di rating corrisponde, c'è una correlazione diretta tra la categoria di rating e la numerosità delle insolvenze. Vorrei ricordare che questo è anche un modo per guardare la validità del rating, quindi che ci sono statistiche che mostrano che in 20 anni di statistiche, in 20 anni circa, i titoli investment grade hanno avuto delle insolvenze molto basse, parliamo dello 0,5% circa, mentre i titoli non investment grade hanno avuto delle insolvenze di circa il 13-14%. Quindi questo tanto per assicurare anche gli ascoltatori che la tripla B+ è ancora un elevatissimo grado di solvibilità. Assolutamente, quando parliamo di investment grade parliamo di un elevato livello di qualità di credito, certamente. certamente ancora. La differenza che vediamo tra diversi stati sono ampiamente spiegati nelle nostre analisi, però per essere molto sintetici per l'ascoltatore, le differenze maggiori che possiamo vedere tra la Spagna e l'Italia soprattutto nel livello di indebitamento. Sicuramente la Spagna tra l'altro ha subito proprio in occasione della risoluzione della nostra messa sotto osservazione a dicembre di 15 stati europei, ricordiamo non riguardava solo l'Italia, la risoluzione di questa azione è avvenuta a gennaio, anche la Spagna ha subito due notch, quindi due gradini di aggiustamento al ribasso, però le differenze fondamentali sono che la Spagna ha un indebitamento molto inferiore all'Italia, parliamo dell'80% anzi anche meno, 70% del rapporto debito-PIL rispetto al 120% italiano, anche la Spagna soffre comunque di un problema di stagnazione, di alta disoccupazione, ha messo in atto già delle riforme importanti, come del resto vediamo che sta avvenendo anche in Italia, però fondamentalmente il livello di indebitamento del settore pubblico è molto più basso, ha un indebitamento privato molto più elevato, però anche questo si sta un po' alla volta diciamo deleveraggiando, quindi questo tema, direi che il fondamentale punto è questo, poi non vorrei entrare magari in maggiori dettagli tecnici. Certo, voi lo tenete in considerazione per esempio lo stock di debito privato, perché è un tema... Sì, senz'altro sì, è uno dei punti di forza della nostra analisi italiana, dove diciamo che l'economia italiana è molto diversificata, gode di un'ampia diversificazione anche industriale, sì, certamente più della Spagna in questo caso, e anche di un debito privato piuttosto contenuto, parliamo del 45% del PIL più o meno, quindi ancora molto contenuto rispetto a paesi che hanno avuto invece un'escalation del debito privato, però ricordiamo che il rating è l'analisi delle capacità di rimborso del debito pubblico nel caso del rating sovrano, quindi comunque dobbiamo tener conto della mole del debito, delle sue capacità di rifinanziamento. Ad esempio il fatto che l'Italia ha delle scadenze di rifinanziamento molto importanti quest'anno e quindi in un contesto in cui il costo del debito per mesi è stato molto significativamente alto, quindi questa è una tendenza che non si è esaurita in un breve tempo. E inoltre è un indebitamento elevato e abbiamo anche da rifinanziare, abbiamo anche visto una riduzione progressiva della presenza di investitori esteri, già usciti peraltro da altri paesi europei. Quando il 60% del debito è acquistato da investitori esteri, gli investitori esteri cominciano a ridurre drasticamente le loro posizioni sul debito italiano, è chiaro che un rischio di rifinanziamento, quindi quello che noi chiamiamo lo score esterno, è molto più alto. Questo è uno dei fattori fondamentali. Stanno rientrando per fortuna a quanto pare. Allora, come si forma il rating? Chi decide la tripla B più dell'Italia? Dove si forma questo giudizio? Chi è l'ultima persona che mette la parola e che mette questo timbro, dottoressa Gerlichi? Allora, tutti i rating sono effettuati attraverso il meccanismo del comitato. Il comitato di rating, allora innanzitutto esistono un analista principale, un analista secondario che si occupano con specialità ovviamente di settore, che si occupano del singolo rating e fanno loro analisi qualitativa e quantitativa sulla base di criteri e metodologie che sono pubblici assolutamente, anzi invito i lettori a guardare il nostro sito perché possono trovare molti dettagli di come noi effettuiamo il rating. Per esempio nel caso del rating sovrano abbiamo 5 categorie che vengono analizzate, ogni categoria comprende una serie di indicatori, una è la struttura economica, uno è la capacità monetaria, diciamo la flessibilità monetaria, uno è il debito esterno, quindi la posizione verso l'estero del paese, uno è il political score, cioè la stabilità politica, la capacità di portare avanti determinati impegni finanziari, e l'altro è la posizione debitoria. Quindi su questi 5 score vengono analizzati e discussi in comitato e alla fine il comitato decide a maggioranza il rating, che può essere quello proposto dall'analista principale o può subire delle variazioni a seconda del dibattito e della discussione. Il comitato è sempre composto solo da analisti con senior, quindi con grandi capacità e grandi diciamo anche esposizione a un portafoglio di rating, per cui sanno lavorando sempre sullo stesso settore, hanno una grande capacità di confrontare situazioni e di vedere che si sia applicati anche correttamente i criteri e poi viene deciso a maggioranza, quindi questo rating poi viene comunicato all'emittente e in seguito con la pubblicato. Famosa regola delle 12 ore. Certo, in Europa vige da più di un anno la regolamentazione che abbiamo avuto con l'ESMA, organo regolamentare europeo, ha stabilito delle regole che non sono esattamente uguali a quelli già vigenti per esempio negli Stati Uniti o in altri ordinamenti. Ogni emittente deve conoscere il suo rating, notifichiamo l'azione di rating affinché possa anche verificare che non ci siano errori fattuali nella nostra analisi, però noi non possiamo pubblicare il rating prima di 12 ore dalla notifica, questo proprio per imposizione regolamentare. È evidente che questo, se vogliamo, è un limite perché aumenta le probabilità che ci siano delle fuoriuscite di notizie che devono restare strettamente confidenziali. È un tema molto delicato questo, perché è oggetto anche di un'inchiesta che vi sta coinvolgendo, che viene condotta dalla Procura di Trani, perché effettivamente sembra che nelle ultime circostanze, appunto in concomitanza con l'uscita degli ultimi giudizi, effettivamente qualche notizia sia trapelata e abbia avuto degli effetti molto importanti sui mercati. Dottoressa Perdicchi, io le faccio sentire che cosa ha detto, anche per rimanere un po' sull'attualità, poi andremo anche alle altre domande appunto che interessano i nostri ascoltatori. Le faccio sentire cosa ha detto sabato a Parma la dottoressa Maria Cannata, direttore del debito pubblico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, intervenuta in questa tavola rotonda organizzata proprio da noi, dal Sole 24 Ore Radio Core, al 18° congresso Assium Forex, dove ha partecipato il governatore della Banca d'Italia Visco. Abbiamo chiesto alla dottoressa Cannata se ritiene che ci sia una responsabilità delle agenzie di rating nelle tensioni che sono iniziate la scorsa estate sul debito pubblico italiano. La dottoressa Cannata ha fatto un ragionamento un po' articolato e le faccio sentire come si è concluso. Secondo me un ruolo le hanno avuto le agenzie di rating. Quando Standard & Poor's in maggio mise l'outlook negativo, praticamente motivando allo stesso modo con cui aveva motivato l'outlook stabile pochi mesi prima, cioè dicendo sì, va bene, l'Italia ha un grande debito però è abituata a gestirlo, ha una bassa crescita ma ha un'economia diversificata. In fondo non è che fosse cambiato quasi nulla, c'era qualche solo perplessità un pochino sulla coesione a livello politico, ma insomma niente di tale da dover giustificare un cambiamento di percezione al punto da mettere l'outlook. Però devo anche dire che finché si è trattato soltanto di Standard & Poor's, secondo me la cosa non aveva attirato l'attenzione più di tanto. Il problema è stato un mese dopo, quando Moody's, l'agenzia che storicamente aveva sempre avuto una visione più positiva del nostro paese, mise non l'outlook ma il watch negativo, che è qualcosa di più forte. E insomma, se la scorsa estate lo spread ha cominciato a volare, colpa anche dell'agenzia di rating che a maggio ha detto per l'Italia è il caso di porre un outlook negativo, dopo che fino a qualche mese prima l'outlook era rimasto stabile. Intanto, che cos'è l'outlook su un paese, ecco, dottoressa Pierdicchi? Ogni rating è l'identificazione di una categoria di rating, quindi AAA, AA, singolare e via dicendo, più una prospettiva. La prospettiva indica gli investitori la direzione attesa da noi del rating. Se è stabile vuol dire che non ci aspettiamo grossi cambiamenti nei 15-18 mesi. Ricordiamo, il rating è sempre una valutazione a medio termine, non a breve termine. Quant'è il medio termine? Quindi? A 15-18-20 mesi, cioè cerchiamo di dare agli investitori un orizzonte tale per cui loro non debbano cambiare continuamente il loro portafoglio, perché ricordiamo questo è costoso e creerebbe ancora più variabilità ai mercati. Il rating ha un ruolo stabilizzante proprio perché guarda il medio termine e cerca di vedere il trend, no? Quindi a questo si associa la prospettiva, può essere stabile, positiva o negativa a seconda che ci si aspetti possibili evoluzioni in una direzione o nell'altra. Noi spieghiamo questi outlook e spieghiamo anche a che cosa di solito sarebbe associato in futuro un abbassamento ulteriore del rating oppure un passaggio di un outlook da negativo a stabile. Lo spieghiamo in modo tale che gli investitori si rendano conto di quali sono i fattori che noi stiamo tenendo più monitorati per un'evoluzione del rating. Questo è molto importante perché noi cerchiamo sempre di dare un'indicazione che agli investitori poi fa sì che gli investitori a volte anticipino le nostre analisi nelle loro decisioni, anticipino l'andamento del rating e quindi già riflettano, diciamo, negli spread, nelle loro decisioni, quello che ritengono sarà la direzione del rating. È anche interessante leggere le nostre analisi, perché nelle nostre analisi si vede che in realtà l'Italia è stata molto stabile per tutta la crisi, dal 2007 al 2011 l'Italia non ha mai cambiato rating, laddove tutta l'Eurozona ha subito enormi, vorrei ricordare agli ascoltatori tutto quello che abbiamo osservato nell'Eurozona, la Grecia, siamo stati i primi a segnalare che la Grecia aveva dei grossi problemi, addirittura nel 2004 noi avevamo segnalato che la Grecia, che non è mai stata più di una singola A, era stata abbassata, eppure il mercato continuava a essere estremamente positivo, apprezzare la Grecia come i bund, quindi la nostra analisi fondamentale era diversa dai sentimenti del mercato. L'Italia è stata stabile grazie al fatto che, pur avendo un rating, se vogliamo, che era piuttosto era una più stabile, piuttosto più basso di altri paesi, per il debito soprattutto elevato, però non aveva mantenuto questo indebitamento stabile e aveva tenuto anche la spesa pubblica molto contenuta grazie all'attività del ministro anche Tremonti. A partire però da questa da maggio abbiamo l'abbassamento il cambiamento di outlook ha riflesso soprattutto il fatto che le nostre aspettative erano che l'Italia attivasse tutta una serie di meccanismi di riforme strutturali che avevamo sempre evidenziato in questi anni, volte soprattutto al processo di crescita. Quando abbiamo visto che i nostri analisti hanno stimato che la crescita sarebbe stata molto inferiore alle aspettative, addirittura poteva andare in direzione di una non crescita, e che in queste condizioni il rapporto debito e PIL, che noi ci aspettavamo in calo da parte del governo precedente, cioè che il governo si impegnasse a ridurre questo rapporto, non sarebbe potuto diminuire, ma anzi probabilmente aumentare per effetto della minor crescita, la minor capacità dell'esitazione nelle riforme strutturali che ci aspettavamo, abbiamo cambiato la prospettiva. Questa prospettiva è poi stata seguita da un abbassamento del rating che teneva conto di numerosi fattori, tra cui anche l'evoluzione sia delle misure economiche messe in atto, che ci sembravano più ambiziose rispetto alla reale capacità di raccolta, diciamo, da parte della capacità realizzativa degli introiti attesi, sia per una riduzione delle aspettative di crescita e sia per il mancato, per l'incertezza politica che ha cominciato a evidenziarsi fortemente a partire da maggio. Vorrei anche ricordare che però gli spreads in Italia non sono cambiati molto, anzi non sono cambiati affatto con il nostro primo downgrade, sono cambiati a partire da luglio, quando le incertezze politiche sono diventate molto forti e si è visto che l'incertezza politica creava una difficoltà a mettere a punto quei pacchetti economici che tutta l'Europa si aspettava dall'Italia. E lì è stato il periodo della famosa lettera della BCE. Allora, affinché cambi il giudizio sull'Italia, mi chiedo che cosa sarà necessario fare, visto che magari così avremo anche tutta l'intenzione di scrollarci di dosso questa tripla B, ma i processi sono anche lunghi, non sono cose che capitano, che succedono da un mese ad un altro. Alessandro da Torino, rapidissimo, perché qua il tempo ci è sfuggito di mano e entro 3 minuti dobbiamo chiudere. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno. La domanda è questa, appunto: cosa deve fare l'Italia adesso per riguadagnare la singola A, viste le azioni di Monti e visto che lo spread sta ritornando sui 300? Facciamo ben sbilanciare la dottoressa Pierdicchi. Visco ha detto che andremo in recessione quest'anno, lo dicono tutti, insomma il PIL sarà negativo, quindi per la crescita dovremo ancora aspettare un po', dottoressa Pierdicchi. Ma guardi, innanzitutto io non sono un analista e noi non diamo mai suggerimenti e consigli, perché il nostro ruolo è solo quello di osservare ciò che accade e riflettere le nostre opinioni, però posso ricordare che 3 sono i fattori che sono alla base dell'ultimo downgrade. Uno, ricordiamo, ha a che fare con l'Eurozona, le difficoltà politiche dell'Eurozona a mettere a disposizione mezzi sufficienti per affrontare crisi sistemiche, di cui l'Italia potrebbe essere una parte importante, perché sappiamo che gli spread su l'Italia riflettono una difficoltà degli investitori a finanziare l'Italia. L'altro è una vulnerabilità proprio dal punto di vista del ricorso ai fondi esterni, perché vediamo un assottigliarsi degli investitori esteri in presenza di un costo del debito sempre elevato. E il terzo, non meno importante, è la crescita negativa che noi oggi ci attendiamo intorno almeno all'1% di recessione per l'Italia. Poi c'è anche chi, fonti ufficiali, prevedono un andamento peggiore. A fronte di questo però noi abbiamo evidenziato che il governo attuale ha subito iniziato con programmi di molto importanti dal lato strutturale, dal lato dello stimolo della crescita. Evidente che se l'Italia riprende un sentiero di crescita, questo avrà un effetto molto positivo, e anche se lo fa attraverso la liberazione di quel potenziale economico che Standard & Poor's ha sempre evidenziato nelle riforme strutturali, maggiore flessibilità sul mercato del lavoro, riforma delle pensioni che in parte direi notevole è già avvenuta, e altri stimoli all'imprenditoria, perché l'Italia ha un tessuto imprenditoriale molto forte, però anche gravata da un sistema pubblico inefficiente, costoso, che frena le capacità di crescita del settore privato. La trasmissione sta terminando, non riesco ad affrontare la questione degli errori che vi attribuiscono fatti nel passato, ma ancora su di voi insiste la lettera scarlatta degli errori fatti, se così almeno li considerate, dottoressa Perdichi, su Lehman Brothers, su Parmalat e quant'altro. In 20 secondi ce la fa? Sì, beh, Reti non ha poteri taumaturgici, noi non prevediamo la verità, facciamo delle previsioni e le nostre capacità previsive sono appunto evidenziate dalle statistiche. Certamente non siamo in grado di prevedere frodi e non siamo neanche in grado di prevedere crisi sistemiche, è per questo che ci dobbiamo attendere che anche categorie investment grade, una su moltissime, ogni tanto possano fallire, altrimenti cioè anche una tripla A in teoria può fallire, ma la numerosità con cui ciò si verifica è talmente bassa da considerarlo un altissimo livello di credito. L'aspetto presto di nuovo a Salvadanaio, grazie molte per essere stata con noi. Maria Pierdicchi, responsabile Sud Europa per Standard & Poor's, a tutti buona giornata, domani.